Dunque, cara Alessia, che ora ti abbevere come i cavalli, come si diceva nei film di Franco e Ciccio. Spero non parli del cavallo di Ruoppolo. Quello lì è stato ammazzato! Vergogna! Vergogna! È nel Agrigento! Vabbè, ma Ruoppolo è Per l'omicida eccellenza. per eccellenza, è comunque un uomo Non penso sia che. un animalista, No, un non penso che sia anti-animale. vegetariano o altro. È l'incubo degli zoo, insomma. Se vedono un ruoppolo, incominciano a Si grattarsi tutti gli suicidano, animali. Sì, si ammazzano scappano. da soli, direttamente. Dunque, parliamo un altro poco di cartoni. E parliamo ancora di questo Steve Griffin, il tuo amato Steve Griffin, che ogni tanto fa degli spin-off, come nel caso della storia segreta di Steve Griffin, film del 2005, che viene piazzato ogni tanto nelle varie serie. Te ne accorgi dalla sigla diversa, fanno una sigla tipo anni 70 della Casa della Prateria. Mentre mi ricordo, ecco, l'episodio di Brian che deve andare a trovare la mamma, che poi era morta, eccetera, eccetera, l'avevano imbalsamata, e Steve che gli fa l'onore funebre e dice: sì, era una bella cagna, poteva fare da soprammobile, da tavolino, una cosa abbastanza soddisfacente, ecco. Ma tu che hai visto il film, leggilo tu, perché non posso sembrare io No, ma strano. io il film non l'ho visto. Vabbè, inventalo, non lo so. Cosa dobbiamo dire? Cosa dire? Ma cosa dire? Insomma, il film che è di questo Steve Griffin, che in Italia è stato piazzato a metà. Non è stato messo integro, quindi siccome non è stato messo integro, noi ce ne laviamo le mani. No, Sono perché contento. Il sapone dobbiamo. ce l'hai. Ma Il sapone ce l'ha, ma io me ne lavo le mani, come disse Ponzio Pilato, che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata con Troisi. 12 minuti, cioè, non vi dico. Cosa dobbiamo dire più? Sì, di Stewie non abbiamo detto che tenta sempre di uccidere la tenta madre, sempre di c'è un uccidere la certo mamma. affetto Un nei confronti della affetto mamma. materno, sì. Poi improvvisamente diventa anche mammone. Non so qua. Ah, perché Appellino. c'è lo stacciotto, c'è Rupert. Non so, gli aveva salvato Rupert, la mamma, da uno scippatore, e poi diventa mammone. Ecco, intanto entra in studio anche Rudy Zerbi, posto in ammazzante. Ma ecco, visto che il nostro regista provoca, io lo provoco più ancora. Tu mi hai provocato, io te magno. Dunque, un attimo che dico la solita Juve frase. Dunque, in questo caso Claudio Gentile. Ecco, il nostro regista non deve offendersi. Ecco. Perché alla Juve si acquisisce un'abitudine mentale di sacrificio che non c'è da altre parti. Alla Juve ti insegnano che la partita più importante è sempre quella che deve venire. Ha capito? Alla Juve ti insegnano ad avere sempre fame di vittorie, a non accontentarti mai. Non è un caso che le fortune della nazionale, come qualche giorno fa, siano sempre coincise con la larga presenza di bianconeri e nell'azzurro, non nel Sharawi. Ah sì. Ah. No, Bing Bang Boateng. Con le contratture varie. Zazza. Dunque, diciamo dell'amore materno. Ridi pure a masso di pelo, cioè ci Ci sta proprio a sta a pennello. pennello, sì, un'altra serie che avevano fatto dentro i Griffin. L'amore materno di Steve, proprio che è da esempio, no? Aveva fatto la macchina del tempo con quei giocattolini che si danno ai bambini, mucca, pollo, carota, e poi c'era temporale, tempesta, eccetera. Bellissima sta cosa. Mai visto. Ma cioè, fa l'esperta dei Griffin, sta Cristiana e non si è vista le Ti ho puntate. detto solo che sono un'appassionata di Stewie, non è che ho Ah, dovuto gli vedere piace tutto il film. Mi proprio piace il fatto che tenta di che c'ha uccidere la la palla madre, rugby voglio in dire. testa, che Ha anche ragione diventa lui. gay in due serie, no? Ma può dare Che non lo atteggiamenti, capisce impressioni di nessuno. In atteggiamenti famiglia non lo capisce nessuno, lo sbagliati. capiscono tutti poi. Va, Ma non si vuole fare gli capisce, lui attentati. parla, però il cane lo capisce, ma la madre Sì, no. il cane lo prende in giro, no? Il cane Il alcolizzato, cane forse alcolizzato. è proprio perché si Il alcolizza, cane riesce a filosofo. Il cane comprendere. niceriano, disse qualcuno. Lo analizzò filosoficamente, era un cane niceriano proprio. Niceriano. Sì, tu hai fatto filosofia con Nietzsche. un. Lasciamo stare con chi hai fatto filosofia. Dunque, breve stacco, mandiamo Ruoppola. Perché? Non criticare i miei filosofi. Che Ruoppola. No, non critico Ruoppola, ci Gli mancherebbe il insegnanti di filosofo di tutta la filosofia. mia categoria. Ricordiamo che prima o poi avremo in collegamento telefonico Ruoppolo e ci faremo raccontare se magari avrà ammazzato un giaguaro. Ma chissà, intanto beccatevi questi 2 minuti di Ruoppolo allo stato puro.